Quando inizierà lo show con le luci addosso, io spero non finirà, che restiamo chiusi ma in gabbie dorate. E se mi resterà soltanto l'ultima frase. Vorrei parlarti d'amore, però so che non è chic. So che non te l'aspettavi da una così. Ancora stringimi, bruciasse il mondo adesso, ancora stringimi. Se sbatto nei tuoi occhi come spigoli, tu salvami, che a forza di bere petrolio mi son fatta il cuore nero. E scende una lacrima di plastica, ci fosse un modo io la cambierei. Ma a volte questa vita mette i brividi, uccidimi. Quando inizierà lo show, prendi tutto ciò che vuoi. Spero ti aiuterà a sfondare i muri e le porte blindate delle mie verità. 21 grammi di anima persi così, buttati via per chi non mi merita, bruciati in un secondo. Ho capito per sempre che forse per niente, a forza di bere petrolio mi son fatta il cuore nero. Stringimi, bruciasse il mondo adesso, ancora stringimi. Se sbatto nei tuoi occhi come spigoli, tu salvami, che a forza di bere petrolio mi son fatta il cuore nero. Scende una lacrima di plastica, ci fosse un modo io la cambierei. Ma a volte questa vita mette i brividi, uccidili, che a forza di bere petrolio mi son fatta il cuore nero.